Allora, da pochissimo è uscito un bel libretto scritto da Davide Raimondo, che è stata voce appunto dei CGB. Libro dal titolo Sarà che siamo inquieti, una storia punk hardcore. Allora, poi magari quando pubblicheremo la trasmissione sul sito troverete tutti i contatti per poter richiedere questo libretto. Intanto noi abbiamo deciso di leggervene un estratto. Libretto, insomma, che è una coproduzione della Tatka Records, CGB, Lanterna Pirata Do It Yourself, Scatti Vorticosi Records. Piedi per terra. A che serve la visibilità se quello che dice è trasparente? E le loro ruspe sono sempre di più e più forti, inquinano l'aria, cancellano i ricordi, fanno sanguinare anche la dura roccia. Ti ricordi quella vecchia casa dove andavamo a strimperare la chitarra, che fregavamo a mio nonno e a fumare le prime canne? Beh, ora lì non c'è più niente, c'è un gigantesco pilastro di cemento armato con il nome di una ditta spagnola. È la nuova Nina ferroviaria che sta passando su tutto, anche sulle vite della gente. E forse non ce n'era bisogno, ma si sa, per loro tutto deve andare veloce, rapido. Ogni singolo secondo deve essere produttivo e l'ozio è stato bandito. Il voler osservare è un concetto retrogrado ed obsoleto. Dai, siediti e dai sto quattro, e che stanotte i microfoni tacciano per sempre. Lunedì 23 febbraio 2009, CGB, Imperia. E questo era più o meno, insomma, l'intro di Morte di un microfono, nonché l'introduzione a questo libro. Tornando a casa la notte con la gola gonfia e rossata, guido lentamente sull'Aurelia bagnata dalle prime piogge autunnali. La strada assomiglia ad uno specchio su cui si riflettono la desolazione, la noia e, per una strana ed inspiegabile sinergia tra luce ed ombre, soprattutto il mare. Il mare che rappresenta una via di fuga, una speranza per animi inquieti e tormentati che vivono sul ponente. Periodi di stasi alternati a brevi momenti di fuga da una regione che inumidiva gli animi e annacquava una volontà sempre più debole. Si andava via per un po', ma si ritornava sempre, ritrovandosi alla fine nello stesso bar con le stesse facce, a bere pastis e a fare due chiacchiere. Un mistero. L'inspiegabile attaccamento alle proprie radici, misto all'insicurezza e alla paura. Qualcuno, in un certo senso, riusciva a fuggire anche senza muoversi, usando metodi alternativi. Non tutti sanno che esiste una conchiglia, la comune patella cerulea, che vive attaccata alla sua piccola porzione di scoglio. Essa si muove e si sposta per cibarsi, ma come nella teoria dell'ostrica di Verga, ritorna sempre però a posizionarsi nel medesimo posto dove è stata. Tornando a casa di notte, con il ronzio alle orecchie per i volumi sempre troppo alti, sento rimbombare ancora il secco rumore del legno delle bacchette sulla pelle del rullante, preciso e ripetitivo come un orologio. Come a voler scandire non un tempo qualsiasi, ma il nostro tempo, quello con il quale si è deciso di attraversare il nostro inquieto vivere. Un tempo frenetico, sfrecciante attraverso le cose e solo apparentemente superficiale, ma in realtà di una profondità disarmante e logorante. Un tempo pieno di coscienza, rabbia e sudore, apice terminale di un'invisibile fornace sommersa e ribollente, carica di passioni, fra cui quella di sentirsi vivi e fuori da ogni schema. Tornando a casa nella notte, assaporo l'odore della sala prove che impregna la mia felpa. Odori ormai familiari, birra, tabacco, sudore, hashish e i resti di una cena preparata con il più sincero degli affetti. Sono quasi arrivato a casa e la tortuosa strada in salita che conduce dove abito, contornata da buche e terriccio che fanno sobbalzare l'auto e mi ridestano dai miei pensieri sopiti. Prima di spegnere le luci e chiudere gli occhi, in questa stanza circondata da locandine alle pareti e vinili impolverati sullo scaffale accanto al giradischi, penso che non c'è altro posto dove adesso vorrei essere, e so già che domani mattina presto telefonerò a qualcuno di questa mia piccola famiglia dicendo: ieri sera abbiamo fatto schifo, oppure abbiamo provato bene, peccato che la chitarra si è sempre scordata, quando è il prossimo concerto? Speriamo ci paghino il rimborso spese. Ci sono esistenze che ti passano accanto e non te ne accorgi neanche. Esistono persone che hanno un mondo in subbuglio dentro. Ci sono vite che si intravedono per un solo attimo, come due passanti su scale mobili che vanno in direzioni opposte. Esistono mani e pensieri che, se si toccassero, darebbero vita ad una sola entità, uguale e diversa allo stesso tempo. Entità capaci di scuotere l'intimo delle coscienze. Noi non abbiamo mai rappresentato una piccola minaccia, ma a modo nostro si è sempre cercato di dare un punto di vista differente su cose, luoghi, sentimenti e ataviche rabbie. Su un mal di vivere spesso anestetizzato e curato da quei momenti in cui la nostra strada è stata la medesima per tutti e quattro. Una strada che alla fine è sempre culminata su un palco. Mi trasferii quasi definitivamente in Liguria nel 2000. A quei tempi il mio compagno di viaggio, ancora oggi mio amico, si chiamava Enzo. Suonavamo insieme in un gruppo hardcore, io siciliano e lui di Reggio Calabria. Io cantavo e lui suonava la batteria. Era bravo, bravissimo, e lo sapeva. Una sorta di metallaro convertitosi al punk hardcore, tecnico, veloce, potente. Fu ben presto ironicamente soprannominato il martello dello stretto. Ho fatto tesoro di un suo detto che egli ripeteva spesso, un detto che ripropongo ancora in varie situazioni, risultando sempre antipatico. Quando gli dicevano che era molto bravo, lui rispondeva sempre: non sono io ad essere bravo, siete voi ad essere scarsi. Approdammo nella riviera di Ponente Ligure ad Imperia, per coincidenza legata al girovagare rimbalzante su e giù per lo stivale, per concerti, ma anche per le precarie, quasi misere condizioni economiche in cui versavamo. Ma certa anche la voglia di andare via buttandoci tutte le spalle. Ricordo ancora con lucidità la Fiat Tempra di Enzo, con l'immancabile batteria caricata tra gli zaini, sacchi a pelo e una cassetta di barattoli di vetro contenenti pomodori, melanzane, olive e peperoncini. Tutto rigorosamente sott'olio, tutte cose di noi terroni. Partimmo di notte ascoltando una cassetta dei Voivod, senza nemmeno il crick per cambiare le gomme. Fu così che andammo a vivere in questa vecchia casa di campagna, nei dintorni di Imperia, a 5 minuti da una selvaggia scogliera. I proprietari genovesi, i cui nonni avevano vissuto lì molti anni prima, non l'abitavano, e così sia la casa che tutto l'oliveto intorno, gli alberi da frutta e quello che un tempo doveva essere stato l'orto, una giungla di rovi e piante infestanti di ogni tipo, ci fu ceduto con un contratto di 10 anni con l'impegno di ricostruire tutto. Impiegammo 3 anni a rendere tutto di nuovo abitabile. Il tetto in alcune sue parti era da riparare, comprese alcune travi che erano marcite, casa, uliveto e terreno, tutto da rifare. Lavorammo duro e di tanto in tanto, quando ad ottobre si faceva l'olio, ne prendevamo anche un po' per noi. Decidemmo di prendere anche 2 cani, io una lupa, Gilda, ed Enzo, una femmina di pitbull che chiamò Chicca. Ci facevano compagnia in quell'enorme spazio e il primo anno della loro vita ridussero a brandelli quasi tutto il mobilio della casa, materassi compresi. Fu proprio un bel vivere, scandito dalle stagioni, dai capricci del tempo, dalla stufa a legna che andava in inverno, dalla scogliera con il mare a 5 minuti e dalla doccia di fortuna fuori con la canna dell'acqua. Tutto però sempre addolcito dalla fresca ombra dei 2 giganteschi tigli. Le mani si indurivano acquistando sempre più esperienza e così pensammo anche di rivendere qualche prodotto dell'orto. Piantammo nuovi alberi e provammo a vendere qualcosa, anche se i primi pomodori autoprodotti con soddisfazione non sapevano di niente. Ma non ci importava, perché quello che ci circondava ci ripagava comunque. Una volta, in una di quelle vasche per l'irrigazione, misi 4 pesci rossi. Diventarono una colonia. E si andava avanti tra legna, il rosmarino, la salvia, l'odore di terra umida al mattino, che in un certo senso lenivano la fatica, così come di conforto era il rumore della pioggia sul tetto, le luci al buio e anche qualche cinghiale. E una furtiva coppia di tassi. Tutto questo mi stava avvicinando ad un mondo. Che mi aveva sempre attratto, sebbene l'avessi vissuto in maniera marginale. A parte tutto questo, c'era la cosa più importante: iniziare a mettere in piedi la nostra sala prove in un'area della casa adibita in passato a deposito, uno di quei posti dove ci metti la roba perché non ti serve, ma non la butti perché ti sei comunque affezionato. quelle cose che cominciano a perdere importanza, come una sorta di anticamera per mettere via i ricordi. I ricordi, soprattutto quelli più ingombranti, che puoi toccare con mano, vengono sistematicamente spostati e di solito trovano posto in zone sempre più scure, polverose e dimenticate, riflessi sbiaditi e stanchi di una memoria che via via perde di significato. Successe lo stesso con la nostra sala prove, tirata su con oggetti di un tempo perduto e forse per qualcuno anche di scarso valore, cose dimenticate da chissà chi. E così, senza rendermene conto, divenni una sorta di custode della memoria altrui. Quel luogo ebbe un ruolo fondamentale nel primo periodo di quello che sarebbero stati i CGB. Oltre alla vita di campagna, però, provammo ad averne anche una serale e ci rendemmo conto, dopo diverse uscite, che quella zona della riviera aveva ben poco da offrire musicalmente. Un territorio pieno di cover band di ogni tipo, solo bambocci in pose plastiche, più attenti all'ultimo modello di Fender o di pedaliera, tutti pieni di sé e pronti a sciorinare cascate di note e assoli interminabili, senza un minimo di passione, se non quella per l'autoglorificazione. Qualcuno si era talmente calato nel personaggio che cercava di vivere la stessa vita spericolata del suo idolo. Peccato che il loro conto corrente facesse la differenza in quello che volevano esprimere. A parer mio, nonostante la futile popolarità locale di cui godevano questi personaggi, non erano altro che persone sole, con poco o nulla da dire, forse neanche a se stessi. Tutto era avvolto da un piattume creativo e, come dice un mio amico napoletano, con pochezza di pensiero. In mezzo a questo panorama disarmante esisteva un posto, a 10 km da casa, dove trovammo ciò che volevamo. Era il Babilonia, situato in una zona isolata vicino all'argine di un fiume, punto di riferimento per gruppi punk hardcore italiani e stranieri di passaggio dalla Liguria. Aveva un'ottima cucina, divani e poltrone e uno spazio decente per la vendita e l'esposizione di libri, dischi e magliette, un bar e una sala concerti piccola, ma dotata di un bel palco. Fuori, uno spazio per i live all'aperto. Memorabili furono per me i concerti dei Barney Neds, Leftover Cracks e i grandissimi Oi Polloi, con cui suonarono anche i CGB, gli spagnoli Fuerza de Lucha e tantissimi gruppi italiani, bravi e meno. La programmazione era spiccatamente punk hardcore, anche se non mancavano le volte in cui vidi musicisti particolari, come la Toy Orchestra, che suonavano con strumenti giocattolo. Il Babilonia, come dicevo, dava spazio a tutti, dovevi solo avere un po' di pazienza e prima o poi ci suonavi. Era gestito da poche persone, quasi tutti ex occupanti di un posto di cui ho sempre sentito parlare con nostalgico affetto, il Sobbalzo. Il Babilonia comunque non godeva di un'ottima fama, anche perché solo pochi del posto, vista la loro attitudine musicale, avrebbero potuto suonarci. Mi ricordo che spesso ho assistito a vere e proprie risse ed eccessi alcolici, ma in fin dei conti queste cose succedono anche nelle discoteche e nei bar.